Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Allora, abbiamo archiviato il primo turno di playoffs e non sono state poche le sorprese, almeno in relazione ai miei pronostici iniziali, con un paio di gare 7 entusiasmanti ed in complesso un numero di serie combattute, interessanti, cariche di spunti di riflessione. Malgrado tutto questo si viaggia alla velocità della luce e quindi è il caso di iniziare subito a presentare le serie di secondo turno, cioè le semifinali di conference che sono già iniziate e che saranno proseguite in seguito alla chiusura di questo podcast rispetto al momento in cui lo ascolterete, considerando che lo stiamo registrando di mercoledì pomeriggio questa settimana. Partiamo quindi dalla Eastern Conference. Con una vittoria in gara 6 nel campo dei Wizards, i Toronto Raptors hanno infranto la regola di una serie che vedeva vincente sempre la squadra di casa, conquistando le semifinali di conference contro la risultante di una serie conclusasi in 7 fantastiche partite, quella tra Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Dopo una clamorosa batosta subita da LeBron e compagni in gara 6, Cleveland si è presentata con il miglior James possibile alla Quick and Loans Arena, riuscendo ad ottenere la meglio su una squadra tosta, guidata stavolta da un Oladipo impeccabile, destinata a soccombere nel finale sotto i colpi di Kevin Love grazie ad un riscoperto e rinato Tristan Thompson ed un James da 45 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Dicevamo la puntata precedente, può LeBron vincere una serie da solo? Assolutamente sì, e questa sfida lo ha ampiamente dimostrato. Può battere in solitudine anche la squadra che ha concluso la stagione regolare sulla vetta dell'Eastern Conference, cioè i Toronto Raptors di DeRozan, Lowry e del supporting cast più decisivo della Lega? Difficile pronosticarlo al momento, considerando proprio che Toronto ha tutto quello che Cleveland non ha, e cioè un appoggio concreto alla sua stella, e considerando che i Raptors hanno stavolta un vantaggio campo che può diventare decisivo. In gara 1 però i Cavaliers giocano come dovrebbe giocare la squadra che scende in campo contro la prima della classe da sfavorita metaforica. Toronto parte benissimo, ma LeBron e compagni riescono a rosicchiare il vantaggio iniziale mantenendosi in scia fino al pareggio decisivo ad una manciata di secondi dal termine. Inutile dire che lo mette a segno LeBron James. I Raptors avrebbero 3 occasioni distinte per chiudere la gara all'ultima azione, tutte fallite. LeBron va vicino a deciderla anche con un miracoloso game winner con 6 decimi di secondi sul cronometro, fuori di poco. All'overtime James è ecumenico nell'inserire i compagni da dietro l'arco e stavolta rispondono presente J.R. Smith, Kyle Korver, Tristan Thompson e anche Kevin Love a suo modo, seppur con poco peso offensivo, ma facendo il suo dovere sotto i tabelloni. La serie quindi inizia con una doccia fredda per Lowry e compagni, perché Cleveland si porta in casa gara 1 con una tripla doppia del solito LeBron James. Sarà una serie probabilmente lunga e sicuramente interessante. Il pronostico, io continuo a dire che LeBron non può vincere 4 gare consecutive da solo, ma è capacissimo di vincerne 4 su 7 influenzandole completamente. Quindi io pronostico Cleveland magari in 7 partite, chissà se DeRozan e compagni saranno in grado di smentirmi. La seconda semifinale di conference ad est riguarda quei Boston Celtics che hanno avuto la meglio in 7 partite sui Milwaukee Bucks e di strepitosi Philadelphia 76ers, strepitosi nel primo turno concluso in anticipo contro Miami, e proprio questo è apparso il limite principale per quanto riguarda gara 1, con i Sixers probabilmente arrugginiti da quasi una settimana di riposo. Philadelphia, che ha costruito il suo successo in un gioco strutturalmente equilibrato e basato sui successi al tiro in conseguenza agli scarichi, tira stavolta con 5 su 26 da dietro l'arco, cioè il 19%. Boston invece tira 17 su 35 da 3 e la differenza sta tutta in questa statistica. Non dobbiamo dimenticare che, se oramai ci siamo abituati a vedere i Celtics in campo senza Gordon Hayward e ci siamo fatti una ragione in relazione all'assenza di Kyrie Irving, in gara 1 coach Brad Stevens non ha potuto contare neanche su Jalen Brown, decisivo per tutto l'arco della stagione, quando è stato in campo ovviamente. Ma il Celtic Pride, mai così spiccante in una squadra tanto grintosa quanto operaia di pedigree, determina il sostanziale primo vantaggio nella serie, grazie alla prova mastodontica di un Terry Rozier alla consacrazione momentanea nella Lega, alla clamorosa conferma del rookie Jason Tatum che con 28 punti vince la sfida con Ben Simmons, e la guida clamorosa della chioccia Al Horford, vera spina dorsale per tutta la stagione di questa squadra. Prevedere un passaggio del turno per una Boston in queste condizioni è complesso, soprattutto se i 76ers dovessero ritrovare la mano al tiro. Personalmente vedo gara 2 già decisiva, soprattutto per quanto riguarda l'inerzia della serie, perché se Joel Embiid, 31 punti e 13 rimbalzi in gara 1, dovesse portare i compagni a giocarsi le due sfide casalinghe con una parità effettiva, Philadelphia potrebbe davvero sperare in un allungo importante che li proietterebbe già verso le finali di conference. Al contrario, tornarsene da Boston sotto per 2-0 potrebbe mettere eccessiva pressione su di loro, tutto sommato squadra giovane, in contrasto con un entusiasmo crescente in biancoverde, presumibilmente un ritorno proprio dello sfortunato e già citato Jalen Brown, che si spera infatti che possa rientrare nella serie. Tuttavia, a livello di valori effettivi ed al netto dei pegni pagati alla sfortuna, pronostico un passaggio del turno per Bellinelli e compagni, con una Boston che presumibilmente sarà destinata a combattervi contro anche tra 12 mesi, probabilmente in condizioni diverse, magari per il raggiungimento della finale NBA. Si tratta comunque di due sfide, quelle riguardanti la costa est americana, di probabile interesse, destinate a non esaurirsi velocemente. Prospettiva che appare diametralmente opposta ad ovest, dove, diciamoci la verità, tutto appare apparecchiato per la tanto attesa finale di conference tra Houston e Golden State. Per i Rockets, il secondo turno ha presentato l'assoluta sorpresa Utah Jazz, guidati da Donovan Mitchell, ma privi di un Ricky Rubio stellare in postseason fino all'infortunio, capaci di spazzar via la delusione conclamata di questa stagione, gli Oklahoma City Thunders dei sedicenti Big Three. Per una Golden State destinata a riabbracciare già da gara 2 il suo Stephen Curry, i Pelicans di Anthony Davis possono rappresentare qualche lieve grattacapo, ma probabilmente poco di più, considerando l'entusiasmo che il già citato rientro porterà ed ha portato in realtà nella baia, e considerando che a fianco di Rondo, Davis, Mirotic e Holiday non potrà scendere in campo, come ben sappiamo, quel DeMarcus Cousins che forse avrebbe contribuito ad aumentare dubbi ed incertezze in questa sfida. Occhio perché sia New Orleans che Utah hanno i numeri per poter allungare le serie, quantomeno nelle sfide interne, ma a mio avviso non sono valori sufficienti per potersi permettere di proseguire negli upset già fatti registrare al primo turno. Quindi il mio pronostico, che si accoda a quello di tutto il mondo probabilmente, va per una finale di conference tra Warriors e Rockets, con quest'ultimi avvantaggiati anche dal vantaggio campo conquistato in quanto miglior squadra della Lega in stagione regolare. Diciamoci la verità, al netto di chi definiva anti-basket il gioco basato sui tiri da tre punti a volte fuori ritmo, presentato dai Golden State Warriors all'esplosione degli Splash Brothers qualche anno fa, al mutare negli anni del loro atteggiamento si è fatta strada un sistema come quello di Houston e del suo James Harden, per certi versi apostrofabile con maggior diritto di cittadinanza in quella categoria dispregiativa. Sì, perché come abbiamo visto nella serie con Minnesota al primo turno e nella prima sfida dominata contro i Jazz, quando Harden è in forma la sua selezione di tiro è tutto meno che auspicabile in una struttura di gioco ideale e ragionata. Come dico sempre, non amo quel modo di giocare a tratti bidimensionale di colui che probabilmente verrà comunque incoronato come MVP della stagione, ma dovrebbe risultare sufficientemente efficace per garantire almeno un'altra vittoria nella serie ai suoi, con la forma che il barbone sta dimostrando al momento. Per quanto riguarda il resto, l'intelligenza cestistica e la capacità organizzativa di Chris Paul riusciranno a tamponare eventuali serate storte del leader realizzativo della squadra, forte di un supporting cast di tutto rispetto che anche in gara 1 della semifinale di conference si è dimostrato capacissimo di uccidere spietatamente gli avversari sotto una pioggia di canestri pesanti. Quando hai a disposizione Ariza, Tucker, Gordon ed eventualmente anche Gerald Green appostati dietro l'arco sugli scarichi e ti chiami Chris Paul, non puoi far altro che fregarti le mani immaginandoti le molteplicità di soluzioni opzionabili. Ulteriormente, la crescita di Clint Capela permette ai tiratori perimetrali di dormire sonni tranquilli, difficile infatti che non controlli o tocchi ogni rimbalzo offensivo eventuale in conseguenza ad un errore dei suoi, oltre che garantire solidità offensiva a poca distanza dal ferro. Anche grazie a lui l'efficacia di gioco di Harden aumenta, seppur rinchiusa ulteriormente nell'apparente definizione despregiativa di bidimensionale. Sì, perché il barbone utilizza sempre due uniche opzioni preferenziali: o si costruisce tiri spesso forzati minacciando incursioni che si risolvono spesso in step back anche grazie alle proprie capacità di crossover, o sfrutta la difesa alta per abbattere il difensore in penetrazione opzionando lo scarico verso Capela alla chiusura. Sembrerà un'applicazione semplicistica e tutto sommato noiosa della pallacanestro, ma quando ti chiami James Harden l'incertezza su quale delle due possibilità deciderai di attuare ti rende sostanzialmente immarcabile uno contro uno, almeno che la serata al tiro non sia disastrosa. Le cose si mettono quindi assolutamente male per i grintosissimi Jazz, che a parte Donovan Mitchell dovranno sperare nell'efficacia del centrone Rudy Gobert in disturbo a Capela, una cosa che non è avvenuta effettivamente in gara 1, e nel proseguo dello stato di grazia del giocatore che a mio avviso ha deciso la serie contro OKC. Sto parlando di Joe Ingles, brutto, sporco, cattivo ma anche molto spesso preciso, provocatore quando serve, lottatore senza sosta. Chiedete a Paul George quanto possa essere fastidioso su entrambi entrambi i lati del campo, compreso il gioco fermo. Per quanto riguarda Golden State invece, il ritorno di Curry riporta la struttura di gioco molto vicina a quella che ben conosciamo, con Durant capace di chirurgica ed essenziale precisione, con la minaccia Splash Brothers dietro l'arco e con un Draymond Green, migliore in campo in gara 1 con una tripla doppia, sfiorata per poco anche in gara 2, tornato nella forma tipica delle partite importanti. Le speranze per i Pelicans si stringono attorno alla capacità di Rajon Rondo di inserire a piacimento Anthony Davis, che dovrà sfruttare l'accoppiata sotto canestro con Mirotic per ottenere vantaggi in area pitturata, con entrambi lunghi capaci alternativamente di giocare fuori e presenziare al rimbalzo, dove i Warriors sono notoriamente deboli in paragone. In gara 2 New Orleans riesce a restare in partita quasi fino alla fine all'Oracle Arena, ma ovviamente il ritorno di Stephen Curry non aiuta nell'economia della sfida, mette 28 punti in 27 minuti partendo dalla panchina. La squadra di Kerr prosegue a marciare allo stesso modo in cui è apparsa fino ad oggi, un'armata tranquilla, sicurissima dei propri mezzi, determinata ad arrivare alle fasi decisive della stagione, stavolta finalmente al completo. Come si dice, quando una squadra va nel campo avversario sul 2-0, gara 3 sarà già decisivamente tragica per i Pelicans per sperare di rientrare nella serie evitando lo sweep. L'esperienza maturata nel primo turno al rovescio, con lo sweep inflitto ai Blazers, rappresenta il precedente da guardare per Davis e compagni, considerando l'entusiasmo per il potenziale ritorno in quintetto di Curry, difficile aspettarsi una gara di pausa mentale che Golden State rischia di prendere sotto gamba, quindi servirà da subito una prova eroica per New Orleans per sperare di allungare la serie. Una serie che io temo di piuttosto rapida conclusione, magari per 4-1, rispetto ai quali risultati potrete sicuramente già smentirmi all'ascolto di questo podcast, essendosi giocata venerdì notte gara 3, ma noi ovviamente non lo sappiamo perché, come ripeto, stiamo registrando di mercoledì pomeriggio. Ci sarebbero tante altre cose ancora da dire, soprattutto rispetto alle squadre che hanno anticipatamente chiuso la stagione, prima fra tutti Oklahoma City e il suo roboante fallimento nei risultati, ma il tempo a disposizione è quello che è. La promessa è quella di tornare a parlare di loro, del futuro della talentuosissima Milwaukee, di quello degli Indiana Pacers che non meritavano certo di uscire contro Cleveland, dell'inadeguatezza attuale dello starting five dei Timberwolves, che alla prova del 9 ha mostrato più limiti che pregi. La promessa è quella di farlo ad anello conquistato, a differenza della scorsa stagione di NBA Week, per la quale la conclusione della finale significò la fine delle trasmissioni. Un punto della situazione a bocce ferme sarà doveroso, anche perché saranno presumibilmente tanti i protagonisti dell'estate anche a livello di mercato, e tra questi dovremmo ritrovare ampiamente i vari Paul George, Kawhi Leonard, probabilmente John Wall, chissà se Jabari Parker. Per questa puntata invece ci fermiamo qui, continueremo a raccontare le semifinali di conference tra 7 giorni. Se volete potete seguirci per aggiornamenti eventuali anche sulla nostra pagina Facebook, che si chiama appunto NBA Week, altrimenti ci sono sempre i soliti appuntamenti settimanali per ascoltarci, ed onestamente è un piacere sottolineare statistiche di ascolto in crescita continua per la nostra trasmissione, che genera un pizzico di soddisfazione nel sottoscritto, non lo nego assolutamente, anche se per i ringraziamenti in ogni caso ci sarà tempo in futuro. Dicevamo, ci trovate tutti giovedì sera su Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio su Radio Valdarno. Grazie ancora per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima con NBA Week e i Playoffs NBA 2018.